Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti finalmente insieme. Mi siete mancati. Ecco, siamo qua, abbiamo Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire il nostro sommario. Dai sorrisi sdentati ai primi dentini. La dieta della mamma che aspetta. Sperimentato sui topi un vaccino preventivo per il tumore al seno. Una puntata dedicata ai nostri bambini, oggi ci occupiamo della loro bocca, come avete sentito dal titolo, dai sorrisi dentati ai dentini definitivi, senza trascurare però la tappa intermedia, i dentini da latte, perché anche se cadono vanno tenuti da conto. Credo questa sia un'occasione per parlare di prevenzione, per conoscere le regole e le attenzioni da seguire perché tutto proceda per il meglio, ma anche per individuare con chiarezza le abitudini che vanno scoraggiate. Parleremo di ciuccio, di alimenti che vanno evitati, ma anche di quelle che invece sono consigliati. Daremo indicazioni sul ruolo del fluoro e come sempre vi aiuteremo a individuare i segnali che non vanno trascurati, come ad esempio il modo in cui il vostro bambino deglutisce, come chiude la bocca di giorno e di notte. Infatti dedicheremo anche un piccolo spazio al bruxismo, che interessa molti bambini. Insomma, cari amici, una puntata che possiamo dire parlerà della salute e del benessere della bocca del vostro bambino dalla A alla Z. 824 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349-238-6666. Vi presento i nostri ospiti qua in studio, il professor Luca Bernardo, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Direttore del Dipartimento Materno-Infantile del Fate Bene Fratelli di Milano. In linea abbiamo la dottoressa Adele Fantoni, medico-chirurgo specialista in odontoiatria e ortodonzia infantile presso l'azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. Dottoressa, benvenuta anche a lei, bentornata. Grazie, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e al professor Bernardo. Allora, un pediatra e un odontoiatra infantile, due figure chiave a cui spetta il dovere e il compito di informare le mamme, educandole a coltivare e preservare la salute dei denti del loro bambino. Ma nello specifico, professor Bernardo, qual è il suo compito? Beh, è importantissimo che il pediatra in generale sia innanzitutto il medico di fiducia e il medico al quale la mamma, i genitori, ma anche la famiglia, quindi gli zii e i nonni, si rivolgono quando hanno un problema, ma anche quando si deve parlare di prevenzione o di corretti stili di vita. Quindi questo è il compito importante, credo, e moderno del pediatra. Quindi lei se li ha presi tutte, mamma, papà, zii, nonni. Eh? Abbiamo allargato il tiro. Dottoressa Fantoni, per andare dal dentista bisogna avere i denti, no? Questo è evidente, ma non bisogna aspettare quelli definitivi. Si può, anzi si deve, giocare d'anticipo. Certamente, prendendo l'esempio dagli americani che ci guidano, visto che sono sempre un po' più avanti di noi con la ricerca, addirittura l'Associazione dei Dentisti Americana, una società scientifica che raggruppa tutti i dentisti, che ha l'equivalente anche in Europa e in Italia, sì, consiglia di portare i bambini dal dentista pediatrico addirittura al compimento del primo anno di età. E questo perché è la mamma col bambino che deve essere, per così dire, addestrata e guidata, sì, a una corretta igiene orale, nonché alle norme alimentari, a partire dal primo dente. Quindi giochiamo da anticipo, ma a dirla tutta, voler proprio fare le cose per bene, bisognerebbe iniziare ancora prima. Una mela al giorno. Eh sì, perché i dentini cominciano a formarsi quando il bambino è ancora nella pancia della mamma, verso il secondo o terzo mese di gravidanza, il che significa che anche le mamme hanno, ce l'hanno sempre, un ruolo determinante. Ne parliamo con la professoressa Irene Cettin. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno. Direttore della clinica ostetrica e ginecologica all'ospedale Sacco di Milano. Allora, anche le mamme sono responsabili della salute dei denti del loro bambino già ancora prima che il bambino nasca. Sì, come infatti ho sentito che diceva, i denti iniziano sicuramente a formarsi già tra il secondo e il terzo mese, quindi nel primo trimestre, quando sappiamo appunto che avvengono tutta una serie di meccanismi di morfogenesi, cioè si formano tutti i vari organi del bambino, sì, e poi continuano naturalmente a svilupparsi per tutta la gravidanza. Per cui in realtà, siccome il bambino chiaramente finché è nell'utero dipende completamente dalla dieta materna e dal passaggio dei nutrienti e dei micronutrienti attraverso la placenta, una buona alimentazione materna è naturalmente molto importante, in particolare sono molto importanti calcio e fluoro. E per quanto appunto sappiamo da tutti gli studi, eccetera, purtroppo le nostre diete, mentre sono molto ricche di carboidrati e a volte di macronutrienti, anche non necessariamente sempre buoni, a volte sono un po' carenti di micronutrienti. Quindi la mamma dovrebbe stare molto attenta a introdurre almeno un grammo di calcio al giorno. Sì. E questo vuol dire latticini, che sono latte, yogurt, formaggi, eccetera, però in quantità, cioè uno dovrebbe bersi, come dire, un litro di latte al giorno, però, tutti i giorni, a sì, volte questo non è a volte questo facile. Non è possibile, perché ci sono anche delle intolleranze, oppure persone che per scelta rifiutano di prendere il latte e i latticini. In questo esatto. caso una dieta alternativa, sì. per così dare spazio a tutte le possibilità. Ma in questo caso, vabbè, ovviamente per quanto riguarda la dieta è difficile se uno non introduce latticini. I latticini naturalmente, come dicevo prima, sono contenuti anche in altre Qua c'è sostanze. Una mamma che chiama, la professoressa Cettini. Sì, no, ma c'è, per fortuna c'è una segretaria Meno male. Che risponde, quindi la facciamo un attimo. No, in questo caso eventualmente bisogna utilizzare degli integratori che poi chiaramente con il ginecologo vengono valutati. L'altro micronutriente importante è naturalmente il fluoro. Il fluoro invece è contenuto soprattutto o nelle acque o anche comunque nei dentifrici e quindi spesso ce n'è a sufficienza. Sì. Può essere però comunque supplementato anche il fluoro sia durante la gravidanza che poi eventualmente anche al bambino. Su questo poi ci sono sempre opinioni non sempre univoche, però diciamo che se una persona si lava i denti con un dentifricio che è supplementato con fluoro, questo dovrebbe essere sufficiente in realtà. Professor Bernardo, vuole intervenire? No, infatti, come diceva l'amica e collega Cetin, il fluoro è fondamentale e importante. Spesso si dimentica, spesso si prende in maniera non continuativa, invece è qualcosa che una volta prescritto dal collega o ginecologo alla mamma o il pediatra per il bambino va preso e va preso con continuità, perché ovviamente i denti hanno bisogno di una struttura e il fluoro è una parte importante di quella struttura. Professoressa Cetin, mi fermo un attimo sulle mamme che devono, soprattutto in in gravidanza in modo particolare, curare l'igiene e la salute della loro bocca. Questo è molto importante, le ricerche lo dimostrano, ci sono dei filoni proprio di studio a riguardo. Professoressa, che indicazioni possiamo dare alle mamme in ascolto? Allora, è molto importante, questo è stato proprio dimostrato, fare un'attenzione all'igiene orale proprio già fin dal primo trimestre della gravidanza, sia facendo, ovviamente questo dirà meglio di me la collega odontoiatra, una pulizia dei denti, sia facendo anche una buona igiene orale lavandosi i denti. Ma perché questo è importante? Perché è stato visto che un ambiente orale sfavorevole favorisce delle patologie della gravidanza come il parto prematuro o anche la preeclampsia, perché sostanzialmente crea un ambiente sfavorevole dal punto di vista infiammatorio, quindi favorisce poi proprio una risposta dell'utero e della placenta che tendono a fare nascere il bambino prima perché percepiscono l'ambiente come appunto non ottimale. Per cui è molto importante stare attenti all'igiene orale in gravidanza. Quindi mamme, curate la dieta e curate anche i vostri denti. Professoressa Cetin, la lascia alle sue mamme. Va bene, buona grazie, giornata. Arrivederci, buona giornata. Pronto soccorso. E noi torniamo ai nostri bambini, ai loro sorrisi dentati. Dottoressa Fantoni, quando iniziano a spuntare i primi dentini? Non c'è una data precisa, proprio il giorno giorno, un periodo, grosso modo. Dal sesto mese di vita ogni giorno è buono, anche perché ogni bambino ha una sua propria linea di sviluppo e di crescita. Professor Bernardo, i dentini fanno male a spuntare, i bambini diventano irrequieti, piangono, aumenta la salivazione, in alcuni casi compare anche la febbre, il sederino si arrossa. Forse non è la nascita del dentino a procurare tutti questi problemi, ma noi mamme crediamo di sì. E voi pediatri tutte le volte ci dite di no. Però allora lei da che parte sta? Dalle mamme oppure dai colleghi che dicono che col dentino, il dentino e la febbre non hanno relazione? diciamo stiamo in mezzo, nel senso che sappiamo comunque che il momento dei dentini è qualcosa di particolare, di importante all'interno della famiglia, perché ovviamente è anche un momento da una parte di gioia, perché finalmente spuntano i dentini e si pensa che inizino a mangiare tutto, qualsiasi cosa, e ovviamente non è così. Soprattutto le mamme e i genitori diventano particolarmente apprensivi, perché i bambini si svegliano improvvisamente di notte piangendo, si svegliano o mangiano magari con minor voglia o rispetto ai giorni precedenti, li vedono particolarmente irrequieti. I dentini possono anche dare questi disturbi. L'importante secondo me è mantenere sempre uno stato di tranquillità all'interno della casa, perché poi la tensione o l'ansia della mamma si trasmette al bambino. Ricordo sempre che, come si dice, che gli occhi sono lo specchio dell'anima, la bocca è lo specchio della vita, quindi è importante la bocca, è importante la deglutizione, la masticazione e soprattutto come viene trattata questa bocca e questi dentini. Ci dà qualche consiglio pratico per evitare questo fastidio che i bambini hanno? Ci sono gli anelli refrigerati, che però anche lì bisogna saperli usare bene, ci sono delle pomatine, che cosa si deve mettere? Diciamo che il mondo della produzione dell'imprenditoria ovviamente ha prodotto tante cose, si è scatenato come sempre, diciamo, nel campo dei bambini. Esistono appunto degli anelli, esistono anche dei giochini che vengono messi spesse volte nel freezer. Questo non va fatto, basta il frigo, nel senso basta anche siano freschi per dare un minimo di sollievo. Ma vi sono anche dei gel che vendono in farmacia che attenuano un po' questo prurito gengivale. In realtà purtroppo è qualcosa con cui bisogna farci i conti e bisogna sapere che esista e vivere con meno ansia e preoccupazione possibile, perché è una cosa fisiologica. Attenzione agli anelli, perché molte mamme li mettono in freezer, ma se sono troppo ghiacciati sortiscono l'effetto opposto, vero? Esatto, come dicevo prima, assolutamente no freezer. No freezer in generale, qualsiasi cosa sia del neonato, del lattante, del bambino. 824 0024 se volete intervenire per avere consigli, indicazioni, se qualche cosa della bocca del vostro bambino vi preoccupa, ad esempio dentini che sembra che non crescano mai, oppure dentini che sembrano troppo piccoli, o dentini che hanno un colore strano, magari il bambino, sono i traumi infantili, sono all'ordine del giorno, il bambino cade, batte i denti, la mamma è molto preoccupata, che cosa succederà di questo dentino? Simonetta, dalla provincia di Macerata, buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, ci racconti? Niente, io ho un problema nel senso nella caduta dei dentini da latte. Mia figlia ha 6 anni, gli sono spuntati i dentini, ma non sotto, ma dietro, i due nella mascella inferiore. Dietro i dentini che dovrebbero cadere. Sì. E già sono passati 6 mesi, questi dentini non cadono. Non cadono. E il dentista mi ha detto che piano piano con la lingua, con la deglutizione, spingendo, spingono quelli dietro e fanno cadere questi da latte che sembrano vogliano andarsene. Dottoressa Fantoni, allora diciamo che questa è l'evenienza che preoccupa di più le mamme. Ora, siccome abbiamo parlato di prevenzione, la prevenzione per essere efficace veramente deve essere precoce, direi che 6 anni, al di là del fatto del far cadere o meno, dell'aiutare a cadere questi dentini da parte di un dentista pediatrico, è bene portare i bambini a questa età, ripeto, 6 anni è più che sufficiente, anzi necessario, per vedere se questa difficoltà di caduta, che in genere noi dentisti per bambini suggeriamo di ovviare facendo fare la ginnastica ai denti, cioè con l'indice e il pollice farli dondolare per stimolare e accelerare la normale permuta. Però bisogna anche vedere perché fanno fatica, ci sono problemi che possono poi svelare qualche malocclusione. Suggerirei alla mamma che questa è un'ottima occasione per fare la sua prima visita dentistica. Intanto, dottoressa Fantoni, lei ha parlato della ginnastica dei dentini. Quando il dente balla, si può con il dito, sì, farlo ballare un po', non legarlo ad un filo e aprire la porta come si faceva, come si leggeva e si faceva un tempo. Dottoressa Fantoni, l'igiene inizia anche quando non ci sono i denti, vero? Le gengive dei bambini le gengive hanno deterse. Cioè le mucose, perché anche quello che è molle, chiamiamolo così, che riveste l'interno delle guance, delle labbra, che tiene i denti saldi, tutto quello che supporta i denti, la parte rosa, gengivale, mucosa, è molto importante, deve essere idratata, quindi la saliva è un liquido importantissimo, bisogna far bere acqua ai bambini per averne. E queste mucose devono essere sane, perché siano sane anche loro devono essere pulite. Quindi anche la lingua va pulita, perché nella lingua, in tutte le sue minuscole pieghe, si possono addensare dei batteri. Molto spesso anche l'alito cattivo, qui anticipo, sì, che si pensa sia dato da malattie. Una cattiva digestione magari. Diciamo che la puzzetta c'è là dove c'è il problema, con certo, un po' la pattumiera. Allora togliamo tutti questi germi dai denti, dalle mucose, per avere la salute della bocca. Professor Bernardo, a proposito di salute della mamma, c'è un gesto che a noi mamme viene automatico e che voi invece ci invitate a evitare, è quello, cade il ciuccio, naturalmente care amiche parleremo anche del ciuccio, cade qualche cosa al bambino, la mamma se lo mette in bocca per pulirlo e lo passa al bambino, è un classico, no? Perché dice, piuttosto che darglielo, se non c'è il rubinetto, una fonte d'acqua, qualcosa per lavarlo, la mamma lo lava così. Voi invece dite attenzione, evitate, non fate così, perché la bocca del bambino ha un ambiente assolutamente diverso rispetto a quella della mamma. Professore. Sì, è una modalità di istinto materno. E quindi il proteggere il bambino si pensa in quel momento, lo si vede nei parchi, lo si vede all'interno di aree ludiche, ma anche a casa, cade il ciuccio per terra e la prima cosa la mamma lo prende, lo mette in bocca, lo ciuccia e lo passa al bambino. Questa cosa è assolutamente sconsigliata, non tanto perché la mamma potrebbe avere non una corretta igiene orale, ma soprattutto perché ricordiamo che la bocca è una porta d'entrata alle infezioni batteriche. E questo potrebbe far sì che alcuni di questi bambini possano avere trasmissione di infezioni che possono avere la mamma, sia batteriche che virale. Ricordo per esempio che dal punto di vista salivare esiste la mononucleose, tant'è che noi vediamo anche in bambini molto piccoli, lattanti e bambini sotto un anno, affetti da patologie virali, quale la mononucleosi, che è quella che si chiama e si dice la malattia del bacio. Esatto. E chi si bacia di più, esatto, delle mamme con i propri bambini? Esatto. Quindi attenzione davvero a passare qualcosa che potrebbe essere più infetto che della caduta stessa a terra. Paolo ci chiama da Reggio Calabria. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo prima dei mercati, una domanda rapidissima. Sì, rapidissima, volevo porre una domanda per quanto riguarda mia figlia, 9 anni, praticamente già da 2 anni dobbiamo ricorrere periodicamente dal dentista per far cadere i dentini anticipatamente, perché sono affetti da carie, sì, che procura insomma dolori e fastidi, per cui non si aspetta la naturale caduta del dente, ma dobbiamo anticiparla. E siamo preoccupati per questo, ma il dentista dice di stare tranquilli perché è una normale situazione, in alcuni casi c'è una particolare predisposizione alla carie, per cui lasciandoci sempre un po' perplessi. Ecco, volevo porre insomma, ecco, questo dentini da latte, ecco, dentini da latte cariate, quindi vanno tolti, estratti prima del tempo. Dottoressa Fantoni, forse anche lo stile di vita, lo stile, l'igiene di questa bambina magari non è accurato, o forse, come dice papà Paolo, forse c'è una sorta di predisposizione. Mamme, parliamo dei denti dei nostri bambini, dai sorrisi sdentati ai dentini definitivi, passando naturalmente da quelli da latte. Dottoressa Fantoni, il nostro papà Paolo di Reggio Calabria ci raccontava che il suo bambino ha delle carie nei denti da latte, tanto che il suo dentista glieli estrae proprio per evitare che la carie faccia dei problemi più grossi. C'è una predisposizione o è lo stile di vita e quindi un'alimentazione, una scarsa igiene a provocare questo problema? Allora, diciamo che più o meno noi siamo per il 30% quello che ereditiamo, sì, per il 30% abbondante come ci comportiamo, cioè, sì, come ci teniamo puliti, cosa respiriamo, beviamo, mangiamo, e per il 30% eventi così non prevedibili, come anche un trauma, come lei accennava prima. E nel caso del papà che ha telefonato, sicuramente non si può escludere una predisposizione, però come per il diabete e l'obesità, lo stile di vita concorre notevolmente a mitigare, se non ad annullare, una certa predisposizione. Direi che sarebbe bene rivedere l'impostazione della cura di questa bambina, con un addestramento all'igiene orale, una tenuta del diario alimentare, perché sicuramente qualche cosa che non va c'è. Quindi bisogna seguire e curare la dieta, professor Bernardo, alimenti poco zuccherati, bisogna lavarsi i denti, frutta e verdura. Lei cosa dice alle sue mamme? Sì, diciamo che la dieta è fondamentale e importante in termini non solo di cura a distanza, ma soprattutto di prevenzione. Ricordo che ancora oggi spesso si vede che si tendono a dare troppi dolci o cose zuccherate ai bambini. Io credo che dove è possibile, e spesso credo che sia possibile, indipendentemente dai lavori che ognuno esegue, la spesa quotidiana è la miglior cosa, e soprattutto non tenere in casa dolci, dolciume, biscotti particolarmente gustosi, ma che però contengono molto burro, molto zucchero e quant'altro. E questo è fondamentale e importante. Ma ritengo anche che i genitori devono imparare non solo a non dare, non mangiare anche loro, perché spesso vediamo dare il buon esempio, esatto. Ahimè. Mauri mi scrive: un bimbo di 6 anni ha tutti i denti neri, non è seguito, la nonna lo riempie sempre di caramelle, avrà problemi con i denti futuri? Dottoressa Fantoni? Sicuramente la carie del bambino piccolo è un problema e un disagio non solo per il bambino, ma anche per la famiglia, perché spesso la carie crea dolore notturno, e quindi significa anche una perdita economica. Non dimentichiamolo, in tempi di crisi, che non tutti possono accedere alle cure, quindi la prevenzione diventa una strategia estremamente importante. Ma al di là del danno fatto al singolo dente, sì, bisogna pensare ai denti contigui e a quelli futuri, nonché alla salute in genere, perché gli streptococchi e tutti i germi che sono responsabili, perché la carie è una malattia infettiva, è una malattia infiammatoria su base infettiva, questi streptococchi possono andare in circolo e creare dei problemi a degli altri organi. La professoressa Cettin ha giustamente ricordato come nelle mamme questo possa costituire un pericolo di gravidanze pretermine con bambini sottopeso. La Società Italiana di Parodontologia mette proprio sull'avviso questo aspetto. Questo aspetto, che è importantissimo, il legame tra la salute della bocca e la salute dell'intero organismo. Certo, io vorrei fare un passo indietro, perché in linea con noi abbiamo la professoressa Alessandra Maiorana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ordinario in odontoiatria pediatrica all'Università di Brescia. Professoressa Maiorana, io con lei, così rispondiamo a tanti sms che stanno arrivando, vorrei parlare di quello che noi mamme chiamiamo mughetto. Non è il termine tecnico scientifico, ce lo dirà lei, è quella, sì, quella patina, professor Bernardo, quelle specie biancastra, che si forma nella bocca del bambino, dei bambini piccoli e anche un po' meno piccoli. Noi iniziamo, ci preoccupiamo, vediamo queste chiazzette, che cosa sarà, e tra di noi si dice il mughetto. Professoressa Maiorana, è mughetto? Chi è il mughetto in realtà? Cosa si nasconde dietro questo nome? Beh, dietro il termine usato mughetto è sicuramente un'infezione da candida. Sì. La candida è un fungo, un micete che si trova comunemente nella bocca di tutti noi. Sì. E non è detto che si virulenti, che diventi dannosa, lo diventa quando il soggetto ha dei deficit immunitari, quindi nella forma più semplice, dopo una terapia antibiotica prolungata, dopo sì, una terapia a base di cortisoni, soprattutto nei bambini. Se si parla di bambini, i bambini che sono soggetti a problemi di respirazione, quindi all'asma o problemi di allergie, che sono che devono usare magari gli spray al cortisone per lungo tempo, possono manifestare come complicanza secondaria questa sovrainfezione da candida, che noi vediamo con una patina biancastra che è facilmente rimovibile con una bassa lingua, uno specchietto, con un, sì, qualunque strumento che possiamo utilizzare. Ma la mamma deve intervenire, deve con una garzina provare a togliere questa patina? Per essere sicura che sia mughetto, innanzitutto deve rimuoverla e vedere che poi si riforma. Sì. Perché è costituita appunto da queste ife, dal fungo che si virulenta, sì, e cresce nelle forme più gravi e che non viene magari riconosciuta o trattata in modo adeguato, può anche disseminarsi nel tratto gastrointestinale, qui crea dei grossi problemi soprattutto nei lattanti, nei bambini piccoli, che sono quelli che soffrono di più, di più, perché appunto stanno maturando le difese immunologiche, hanno tutta una crescita. Questo è il pediatra che li ecco, professor Bernardo, a questi bambini lei consiglia, suggerisce una dieta particolare oppure degli, che cosa Beh, comunque, dice il pediatra? La dieta è sempre importante e fondamentale, indipendentemente appunto di quali sono le lesioni a livello buccale. Io invece credo, e dobbiamo raccogliere un qualcosa che diceva la professoressa, e lo darei veramente come consiglio, visto che in questo momento è partita la stagione dei soggetti allergici, perché abbiamo un ritardo del polline, quindi molti utilizzano il cortisone. Questo è importante dirlo ed è fondamentale dirlo, sciacquate sempre la bocca dopo aver inalato questi spray. Professoressa Maiorana, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e complimenti per tutto quello che state facendo. Grazie professoressa, buona giornata. Io vorrei parlare di fluoro con la dottoressa Fantoni, ma prima do la parola a Luca della provincia di Milano, Dario, poi abbiamo Maria, rapidamente. Luca, buongiorno e grazie. Buongiorno. Buongiorno a lei. Telefonavo perché ho dei problemi con la bambina, ha 5 anni, sì, e da quando aveva 3 anni ha cominciato ad avere i denti anteriori, sì, sporgenti a causa dell'eccessivo uso del ciuccio. Sì. Luca, lei mi trascina in un discorso, il ciuccio, chissà il professor Bernardo e la dottoressa Fantoni si accapiglieranno. Bene, no, ma volevamo proprio parlare di ciuccio. Quindi ha i dentini un po' da coniglietto. Esattamente, ecco. Il problema è che dall'altra parte lo studio dentistico ha detto sì, non c'è problema, quando sarà più grande, verso gli 8 anni, verrà messo un apparecchio che le costringerà l'arcata dentale superiore al rientro. Sì. E questo mi ha lasciato veramente impressionato, nel senso che pensavo di riuscire ad intervenire per tempo prima che questa... Sì, perché ci dicono giustamente prevenire meglio che curare. Luca dice, dottoressa Fantoni, un minuto prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Voglio proprio una precisazione, un consiglio preciso. Allora, il ciuccio come il dito vanno tolti come abitudini viziate a partire da 2 anni di età. Okay. Perché prima si smette, meno fatica si fa e meno danni si creano lo sviluppo del palato. Ok, ma qua la cosa è già stata fatta. Adesso esatto. La bambina ha 5 anni e ha i denti un po' in fuori. Il dentista dice, non si preoccupi, a 8 anni le mettiamo all'apparecchio. Lei è d'accordo oppure direbbe a Luca di sentire un altro collega? Sicuramente è probabile che il danno sia stato fatto e che un apparecchio vada approntato. Se la bambina ha smesso il ciuccio è una cosa buona, si possono fare anche altre cose chiamate ginnastica miofunzionale, ovvero sia esercizi di riequilibrio di una funzione che è stata alterata proprio perché lo sviluppo è stato disturbato dal ciuccio, cioè il ciuccio crea come il dito una beanza anteriore. Vuol dire un'apertura? Un'apertura in mezzo con un palato stretto perché la lingua non... Ma la ginnastica di cui lei parla, che ginnastica è? Ci fa fare sempre ginnastica, dottoressa Fantoni, sempre. Ginnastica per far perché tagliare i denti. Ginnastica per il corpo, ma anche la bocca è un apparato. Devo andare a sentire che cosa succede sulle strade e poi torniamo. Aspettare l'apparecchio? 800 24 0024, parliamo di denti dei nostri bambini. Se i denti sono stati spostati da un ciuccio, è giusto aspettare che i dentini da latte crescano per poi mettere l'apparecchio successivamente? Dottoressa Fantoni. Ripeto che è giusto intercettare le disfunzioni, ovvero sia questa scorretta posizione della lingua che tende ad andare là dove il dito e il ciuccio hanno creato un buco, sì, e cercare appunto di far deglutire, masticare, parlare bene i nostri bambini con qualche piccolo esercizio. Me ne dica due. per esempio fare schioccare la lingua, di modo che la lingua irrobustendosi e tendendosi come una frusta vada a toccare il palato per farlo sviluppare bene e rimanga all'interno. Sì, un po' come quando si fa il verso del cavallino, no? Esatto, che, esatto. Perché la lingua dove deve stare? Su o giù? Deve stare giù, all'interno della bocca, dietro i denti, possibilmente quando si deglutisce con la punta contro il palato. Ok, la deglutizione infatti si chiama deglutizione infantile per distinguerla da quella che poi successivamente si sviluppa come corretta. Dario, buongiorno a lei, dalla provincia di Torino, da dove? Buongiorno, da Chivasso. Da Chivasso, il paese dei nocciolini. Magnifici, vede che sono preparata. I nocciolini, la dottoressa Fantoni non ce li lascia mangiare, ma noi ce li abbiamo subito dopo i denti e va bene così. Dario, cosa succede a casa sua? Ma semplicemente questo, ho una bimba di 13 mesi sì? che all'età di 6-7 mesi ha iniziato a mettere gli incisivi, quindi due superiori e due inferiori, poi però fino ad oggi non ha più messo un dente. Si è fermata. Si è fermata. Al momento. Non so che valenza possa avere nei confronti del fatto che faccia un po' di fatica a mangiare normalmente. Professor Bernardo, le sarà capitate dei bambini che hanno avuto un sì, momento può, di stop? Può capitare, non la vedrei in senso negativo, ma vedrei nei prossimi mesi se ci sarà o ci dovrebbe essere comunque erudizione dei nuovi dentini. E quindi la si aspetta, molto aspetta. Maria da Savona, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti rapidamente. Allora, a febbraio nasce il mio bimbo ed è nato con due dentini davanti. Volevo sapere come devo regolarmi per l'igiene di questo bambino. Già si nasce con la camicia, a volte anche con i dentini. Dottoressa Fantoni, che cosa facciamo dei due dentini del bambino di Maria? Li puliamo subito. Li puliamo subito, la mamma subito al lavoro. Con una garzina intinta in acqua, sì, semplicissima, ci sono anche dei gel senza fluoro perché fino a 3 anni dopo quando si vuole parliamo sì, lo facciamo fluoro. Poi subito del fluoro un flash, sì. Esatto, il fluoro può allora, essere Maria, Maria lo lava con la garzina senza fluoro. Lo lava con la garzina fluoro. Due volte al giorno perché il dente va pulito dal primo che nasce in bocca, okay, senza fluoro fino ai 3 anni, quindi questa è la risposta alla mamma. Per quanto il fluoro che è un minerale importantissimo, proprio recentemente un congresso di pediatria preventiva e sociale con la professoressa Maiorana abbiamo parlato di fluoroprofilassi. Sì. Quella più importante è quella topica, ossia quella che porta il fluoro nella saliva a mezzo di dentifrici, gel o vernici. Sì. Allora, perché diciamo e il Ministero della Salute dà linee guida in questo senso di prendere il fluoro fino a 3 anni? Perché in genere i bambini fino a 3 anni e poi ahimè ancora oltre non vengono visti dal dentista, sì, quindi è il pediatra che decide se un bambino ha bisogno di prendere più fluoro. In ogni caso il fluoro dato per via orale serve nella fase preeruttiva, ma il fluoro preserva la bocca da una acidità eccessiva che poi porta a sua volta alla demineralizzazione e quindi alla carie. Siccome il fluoro rimane nella saliva 12 ore, è indispensabile che i bambini utilizzino un dentifricio apposito per loro, quindi ce n'è uno dai 3 ai 6 anni che deve contenere il fluoro giusto, sono sì, 500 parti per mole, poi dai 6 ai 12 1000 e poi dopo possono usarlo per adulti. Quindi questo fluoro significa mattina e sera attraverso lo spazzolamento dei denti e in quantità di un pisello. Importante la quantità di fluoro, per ogni bambino deve avere il suo dentifricio, in casa non si può usare un unico dentifricio, sì, e la quantità è un pisello per l'arcata superiore, un pisello per l'arcata inferiore. Il fluoro topico non solo va a irrobustire il dente una volta che è già in bocca, sì, ma compete coi batteri nel legame col calcio. Proprio dello fa smalto. Una specie di cintura di sicurezza, esatto, professor ed è Bernardo. È un antibatterico, quindi è veramente utile. Una protezione. Sempre che il dente sia pulito, perché se noi diciamo di prendere il fluoro, di usare il fluoro, ma abbiamo i denti sporchi, non c'è fluoro che tenga. Non è che il fluoro non funziona, è l'igiene che è vacilla. Ringrazio la dottoressa Fantoni per essere stata con noi, ringrazio il professor Bernardo, grazie, grazie davvero. Noi cambiamo decisamente argomento per parlare di ricerca. È stato sperimentato su topi predisposti al tumore al seno un vaccino preventivo anticancro. Lo studio è pubblicato su Nature, porta la firma di un gruppo di ricercatori di Cleveland nell'Ohio. I tempi sono ancora lunghi, ma la notizia accende speranze. In linea con noi abbiamo l'onore di avere il professor Aaron Goldirch, direttore del Dipartimento di Medicina dello IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Un vaccino preventivo anticancro che dovrebbe essere in grado di bloccare la malattia all'origine. È corretto, professor Goldirch? È corretto, perché è una sostanza che si presenta nella mammella soltanto nel latte e nell'epitelio che produce il latte, e perciò potrebbe essere molto utile se si dovesse trovare la maniera con la quale una reazione dell'organismo combatte la medesima proteina che si trova anche nei tumori. Certo, stiamo parlando però di un vaccino che è stato sperimentato sui topi, quindi il tempo è ancora lungo, ma esiste anche un'altra categoria di vaccini anticancro, cosiddetti terapeutici, professore, pensati per evitare che la malattia ricompaia in persone già trattate con farmaci o chirurgia. Di questo si discuterà anche a Chicago, state partendo tutti per questo grande convegno. Ci dice di questi vaccini terapeutici? Sono già pronti? Funzionano? Sì, ci sono tanti vaccini contro varie tipi di malattia, tra cui il tumore mammario. Ce ne sono due tipi di proteine che immunizzano contro componenti della cellula del tumore mammario. Per cui ci saranno dei vari tentativi di combattere con armi immunologiche acquisiti dal paziente stesso, sì, contro la malattia. Esistono anche dei vaccini che sono diversi, sono contro degli agenti che causano il tumore. Questo è il è il presente, questo è quello che abbiamo a disposizione oggi, no? Certo, professore. Il papillomavirus, il virus dell'epatite, là si ottengono dei risultati nella prevenzione dei tumori. Professor Goldirch, grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei. Grazie mille, grazie. Buona giornata a voi che ci avete seguito, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Statemi bene, un saluto da Nicoletta Carbone.